Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Sono le 8:34 minuti, una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Da me Laura Bettini e da Carlo Gabardini. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come stai? Tutto bene? La settimana com'è andata? Bene, direi tutto bene. Sono molto casalingo, ma tutto bene. Eh beh, come tutti noi del resto, siamo tutti molto casalinghi in questa ultima settimana di maggio, settimana nella quale, tra l'altro, Carlo, sai che si deciderà il nome del nuovo ponte di Genova? Certo che sì, e sono veramente molto curioso, quindi sono assolutamente favorevole a questo ingaggio ai nostri ascoltatori che ci dicano loro come lo chiamerebbero, perché ne ho sentiti molti di nomi. Ho sentito da San Giorgio il ponte Renzo Piano, ho sentito il ponte Paganini, che non so se è stato fatto per la questione di Paganini non ripetere, un noto violinista Paganini nato a Genova e che si rifiutò di ripetere un brano. Forse è un po' come per dire che non si ripeta ciò che è successo al Morandi. Beh, un'idea. Ho letto invece questa mattina di una petizione che ha ormai 4.450 firme per chiamarlo Ponte Toninelli, come l'ex ministro dell'epoca. Ah, però. Quindi ci sono veramente le più diverse opzioni. C'è il Secolo XIX che ha tra l'altro un indirizzo email al quale si possono scrivere le proposte. E insomma, alla fine di questa settimana si dovrebbe decidere, almeno questa era l'intenzione. Allora noi vogliamo dare il nostro contributo, no? Quindi potete scrivere al 349-238-6666 le vostre proposte via SMS e WhatsApp, oppure potete anche telefonare all'800-24-00-24 per dirci e motivare il perché di una vostra proposta. Stesso numero per partecipare al quiz, perché oggi è la giornata del quiz. Noi vi facciamo una domanda, ci sono tre possibili risposte. Se indovinate quella corretta, vi aggiudicate un libro, fino a quando non saremo in grado di regalarvi di nuovo i biglietti del MUDEC. Ma credo ormai, Carlo, mancherà poco, no? Più o meno, insomma, qualcosa si muove anche credo sul fronte di sì. Dei musei. Musei, sì, e penso anche che ne parleremo domani. Esattamente, giusto? Ne parleremo domani e anche lì parleremo in particolare con Firenze, con la Galleria degli Uffizi, ma insomma il discorso e il ragionamento varrà un po' per tutti e quindi immaginiamo anche per il MUDEC. Anzi, forse è il caso una volta di invitare anche i nostri del MUDEC, no? Per dirci un po' come si organizzeranno. Però vorrei sapere da te, Carlo, giusto, qual è stata in settimana la tua buona notizia, quella che ci vuoi portare? Guarda, come ti dicevo prima, esco poco. Avevo appena trovato un patto di convivenza con la fase 1, dove se non proprio comodo riuscivo almeno a stare vivo e in ascolto, e all'improvviso questa fase 2 devo dire che mi spaventa, mi deprime un po', mi preoccupa. Però ieri sono uscito a fare due passi anche per capire come stanno gli altri. In giro c'è parecchia gente, tutti ci sforziamo di fingere una certa normalità e rilassatezza, ma è chiaro che nulla è come prima. Ci sono le mascherine, i timori, i guanti da infilare all'ingresso, code ovunque, dubbi su cosa sia lecito e cosa sia pericoloso, ma soprattutto una gigantesca incertezza su cosa diavolo sia questo virus e come ne verremo a capo. Quindi un po' mi è venuto da pensare che la buona notizia della fase 2 è che prima o poi ci sarà una fase 3. Diciamo che, come ha scritto Luca Sofri su Il Post, la fase 2 è una schifezza ibrida, né di qua né di là, è la normalità di prima ma il suo peggio. Nella fase 1 abbiamo tutti sperato, addirittura ha scritto e immaginato che ne saremmo usciti migliori, più consapevoli, più attenti agli altri, all'ambiente, al nostro modo di relazionarci. Ecco, questi giorni di fase 2 stanno un po' ridimensionando le nostre aspettative, questo mi spiace, però non intendo arrendermi. La politica ha ricominciato a litigare dal punto esatto in cui si era fermata a fine febbraio, come se lungo questo lungo intervallo, invece che portare consiglio, gli avesse affilato i denti. Però per strada devo dire che la sensazione è un'altra, la sensazione è che per strada non sia così come nella politica. Ho aspettato diligentemente il mio turno per il caffè, ho chiacchierato in coda con una mamma che cercava cercava lavoro per il figlio, ho fatto la coda per il gelato, ho aiutato dei bimbi a infilarsi i guanti prima di entrare in libreria. E poi devo ammettere che il loro papà ha aiutato me perché avevo perso il tocco magico per aprire quei maledetti guantini tutti appiccicati. Ho anche scoperto che i fiori dei tigli dei giardini pubblici, se seccati, sono ottimi per fare la tisana. Me l'ha raccontato una splendida raccoglitrice sconosciuta e prodiga di consigli, incontrata appunto ai giardini Montanelli. Insomma, la politica vista da casa è un teatrino terrorizzante. La solidarietà che si respira per strada fra persone comuni invece è l'unico antidoto di speranza, ed è ciò che oggi, 23 maggio, mi farà issare un lenzuolo bianco alla finestra per ricordare all'Italia Giovanni Falcone. E a proposito di legami, no? Legame con i nostri ascoltatori, tantissimi, vedi che sono già arrivati molti, molti messaggi su come chiamare questo ponte e molti sono appunto di ricordo, memoria, legame. Ponte del 14 agosto per non dimenticare, ponte 43 come le vittime, ponte Genova, ponte degli Angeli, ponte della Rinascita, c'è anche una proposta ponte Sandro Pertini e poi a proposito di altre, no, legami e solidarietà e progetti che si sono sviluppati in questo periodo, ti vorrei presentare il nostro prossimo ospite. Lui si chiama Leonardo Dominici, è database manager e inventore di Snackzilla. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Leonardo, ciao, buongiorno. Allora, buongiorno. Tu e quanti? 15 ragazzi in rete? Sì, siamo partiti in 13, adesso siamo rimasti in 7-8 che ci stia lavorando. Ecco, avete così realizzato questa app che si chiama Snackzilla e che è dedicata agli studenti, no? Per fare portare, esatto, la merenda nelle scuole. Ci dici un po' come sarà, come funziona? Sì, ok. Allora, praticamente è partito dal problema che durante l'intervallo, durante i cambi d'ora, nei bar degli istituti si crea una gran ressa, una gran folla e quindi si perde un sacco di tempo in attesa. La nostra applicazione, il nostro sistema in generale, servirà a prenotare prima il nostro ordine al barista in modo che lui abbia tutto il tempo per preparare gli ordini con calma, quindi durante le ore di lezione, e poi dopo scaglionare le consegne in base all'orario di consegna definito dall'utente, in modo da permettere alle persone di andare lì solo quando effettivamente il loro ordine è pronto, è pagato, e così miglioreremo il modo di lavorare del barista, miglioreremo... Ma uno già la mattina... Sì. Siccome so che sei molto giovane, mi chiedo, ma uno la mattina presto già sa che cosa vorrà per merenda? E se cambia idea? Beh, allora, se cambia idea, comunque gli ordini in base al tipo di pagamento si possono comunque cancellare e l'ordine può essere fatto comunque in un qualsiasi momento della giornata, indipendentemente da cosa noi vogliamo, quindi la mattina, alle 10, alle 11, a mezzogiorno, quello non è importante. Ah, ottimo, ottimo. E poi in fondo anche adesso molte scuole comunque sono organizzate con un ordine che si fa, lo facevo anch'io diverse ore prima dell'intervallo per evitare l'assembramento che al preside comunque non piaceva, quindi insomma sì. Si tratta... Nemmeno nei periodi prima del Covid, no, diciamo, non piaceva l'assembramento. No, quando andavo io a scuola nel Covid era lontano. Dirlo. No, in questo modo, esatto, noi possiamo... Invece volevo dire un'altra, sì, cosa a Leonardo Dominici, gli volevo chiedere un'altra cosa. Mi sembra molto bello questo fatto che avete lavorato in rete da diverse città senza mai incontrarvi, quindi quasi che sembra un'ipotesi di futuro in tempi di Covid. Com'è stato lavorare a distanza con persone che, se non mi sbaglio, non vi conoscevate prima? Ma no, praticamente no, guardate, vi spiego, c'è stata un raduno, una specie di competizione in ambito informatico, si chiamano hackathon, organizzato da Caris, e l'hackathon si chiamava Hack the School, che è stato un raduno di appassionati di informatica che portavano le proprie idee, quindi mi son presentato, ho portato la mia idea, ho creato delle persone che si sono interessate, quindi questi ragazzi sono entrati all'interno del mio team, e assieme abbiamo sviluppato questo progetto per 3 giorni e visto che è andato bene, visto che comunque è piaciuto, stiamo continuando a svilupparlo e stiamo andando avanti col lavoro, quindi abbiamo lavorato bene, sono stato molto stupito, non lo sarei aspettato, però si può fare, insomma, e anche in questo modo si può fare se uno ha voglia, se uno vuole farlo. Certamente. Senti, adesso come la diffondete? Insomma, a parte attraverso anche Radio 24, ma insomma, come fate a fare, no, render noto che esiste questa app e portarla nelle scuole italiane? Allora, stiamo facendo un po' di interviste, un po' di conferenze in giro. La settimana scorsa ho partecipato a una conferenza di TEDx Cremona e durante la prossima settimana prenderemo parte a una conferenza di Fattor Comune, si chiamano Live Fattor Comune, ed è un gruppo che organizza conferenze, organizza webinar con persone di varia, che si occupano di varie cose. E per esempio noi faremo questo webinar di un'oretta, poco meno di un'ora, in cui parleremo della nostra idea, cercheremo di far vedere chi siamo e cosa sappiamo fare. Ok, quindi insomma siete già ben in pista. Ti devo fare una, lo so che siamo in chiusura, faccio la domanda brevissima, anzi la prima è quanti anni hai e la seconda è cosa farete del premio che avete vinto, perché voi vi siete aggiudicati il primo premio di 2500 euro per acquisti online. Che cosa accadrà di questi soldi? Allora, io ho 18 anni, i ragazzi che lavorano con me hanno 16, 17, qualcuno 15, e per quanto riguarda i soldi tendenzialmente li vorremmo reinvestire, comunque stiamo cercando qualcuno che ci dia una mano, quindi finanziatori, imprenditori che credano in questo progetto tanto quanto ci stiamo credendo noi, ma comunque saranno soldi che pensiamo di investire in questo progetto perché ci teniamo veramente tanto e ci stiamo mettendo un sacco di passione, vogliamo che venga fuori qualcosa di bello e qualcosa di utile per tutti. Bravi, bravissimi. Complimenti. Salutaci tutti i tuoi colleghi in questa avventura e buon proseguimento. Grazie a Leonardo Dominici. Mandagli una mail, un whatsappino. Adesso noi abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, tanti quelli che hanno scritto per il Ponte di Genova e tanti anche quelli che hanno chiamato. Adesso ne sentiremo uno. Buongiorno Bruno, che ha chiamato per l'appunto da Genova. Sì, buongiorno a voi. Allora Bruno, intanto lei ci dirà tra un attimo quello che è il nome che propone. Le leggo qualcuno di quelli che sono arrivati, così sia mai che magari cambia idea all'ultimo momento. Allora, è arrivato Renzo Piano, Toninelli, alcuni sì, alcuni no, Ponte Genova, Ponte Mai Più, Ponte 2020, Ponte Speranza, Ponte Piano Toninelli, e lei invece ci voleva proporre? Io sicuramente Paganini. Paganini. E sicuramente Ponte Paganini, perché Paganini è stato il più grande violinista di tutti i tempi ed è nato in questa città, è un mio concittadino. E anche a parziale risarcimento di Paganini, perché magari non tutti lo sanno, ma nella ricostruzione degli anni 60 della città, praticamente la casa natale di Paganini è stata distrutta. I politici dell'epoca ebbero la bella idea di distruggere la casa di Paganini. Meno male che quella di Colombo, che è lì vicina, è rimasta ancora in piedi. Ecco, quindi sì, lei dice l'occasione. Sì, per ricordare, a parziale risarcimento, insomma lo dico io, però per ricordare un grandissimo artista che ha abitato in questa città, ricordare alle persone che vengono qua, che se vogliono possono andare a vedere il famoso cannone di Paganini, il famoso violino di Paganini che è esposto a Palazzo Tursi e che merita di essere visto. E io le faccio un'ultima domanda. Sì. Il giorno dell'inaugurazione magari suonare un capriccio di Paganini sul ponte. Ah beh, certo, tra l'altro anche da un punto di vista proprio della scenografia. Ma beh, certo. C'è niente di dedicato a Paganini a Genova per ora? No. Come le dicevo, è visitabile. Sì, no, ma non so, non c'è la Torre Paganini o no. Quindi sarebbe la cosa, nuovo. La cosa triste è questa, perché la casa natale di Paganini, una parte della città quando è stata ricostruita, la parte centrale proprio, che si chiamava Via Madre di Dio, che adesso è la zona di Piccapietra, praticamente quando è stata ricostruita, è stata fatta un'operazione immobiliare edilizia, ha rinnovato tutto, però potevano lasciare la casa di Paganini, e come hanno così fatto non con è quella stato. Di Colombo, che in mezzo a tutti i palazzi e grattacieli c'è la piccola casa di Colombo che i turisti vanno a visitare. La ringrazio. Non è neanche sepolto qui a Genova Paganini, è sepolto a Parma. Ecco. Quindi doppiamente avere un qualche cosa di genovese che lo ricordi, che lo ricordi. Grazie molte Bruno. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Buona giornata. Tu poco fa hai parlato dei sentimenti che ti animano, che ci animano in questi giorni, che sono un po' di sicuramente, no, di ansia rispetto a quello che abbiamo vissuto e rispetto a quello che ci aspetta. E sai che anche l'OMS, no, ha lanciato un allarme rispetto a questa, la salute mentale di tutto il mondo sostanzialmente, particolarmente di tutti i paesi e le città che sono state molto colpite da questo contagio, in parte perché ci sono sì, persone... ho visto, mi sembra un tema molto centrale veramente, perché se ne parla sempre molto poco, perché si ha sempre la sensazione poi di parlare di cose difficili, ma ci tocca un po' tutti, diciamo, siamo tutti dentro questa sorta di gigantesco lutto. Chi per un verso, chi per un altro, chi appunto ha avuto proprio un lutto, chi ha lavorato magari come sanitario, certo, negli ospedali, chi ha vissuto comunque un lungo periodo di chiusura in casa, in situazioni più o meno facili, ma comunque di chiusura. Girolamo Grammatico, life coach umanista, speriamo che lei ci possa dare una mano, insomma, ad affrontare qualche strumento per affrontare questo periodo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, l'allarme, appunto, lo buongiorno ricordavamo, prima di cominciare, che cosa fa un life coach? Spieghiamolo agli ascoltatori. Sì, life coach, nel mio caso umanista, è una persona che aiuta gli altri. Ma soprattutto umanista. Umanista, sì, perché l'approccio di sostegno alle persone è basato proprio sulla ricerca dei valori e sulla loro applicabilità nella propria vita, cioè cercare di allineare i valori in cui si crede e le virtù che da queste nascono con azioni dotate di senso nella vita che svolgiamo al lavoro, in famiglia o in altri contesti, in modo tale che la vita sia ricca di significato, la vita sia autentica e sia più felice. Spesso noi viviamo uno scollamento fra alcuni valori forti e quello che facciamo, no? E questa cosa ci porta a un'insoddisfazione. Allora, l'life coach aiuta a raggiungere degli obiettivi. Sì, di solito le persone mi si rivolgono a me per questo, un obiettivo, mi devo allenare mentalmente o devo allenare le mie risorse. È il tipico caso dello sportivo, diciamo. Sì, lo sportivo è proprio l'esempio eclatante, tutto nasce da lì, no? Ci si era accorti che gli sportivi dal punto di vista performativo raggiungevano un apice, però poi non lo superavano perché era necessario un allenamento mentale. Allora ci si è accorti che il mental training era efficace, non solo più per lo sportivo ma anche per le persone che non praticavano sport, perché la mente va allenata a prescindere, non siamo scollegati dal corpo ovviamente, non siamo solo mente ma siamo anche corpo, allora entrambi hanno bisogno di allenamenti specifici, sincronici e che sviluppino il massimo potenziale dell'individuo. Senta, e qui siamo un po' proprio come maratoneti, cioè siamo all'ultimo chilometro, ci manca il fiato per arrivare in fondo, però quindi cosa possiamo fare in questo periodo? Guardi, la metafora della maratona è bellissima perché siamo stati invasi da metafore belliche, no? E quindi questa cosa di questo suo modo di pormi la domanda mi fa felice, perché uno degli studi che io faccio è proprio sull'uso delle metafore sia nella vita personale che nella vita aziendale o collettiva. Ecco, io non credo che siamo nell'ultimo chilometro, nel senso, io credo che siamo dentro una maratona, ma nessuno ci ha detto che avremmo dovuto correre una maratona. Perché la maratona è una corsa davvero difficile, per la quale serve una grande preparazione. E quindi ci siamo trovati a dover correre. E soprattutto la maratona ha una quantità di chilometri molto precisa, che tutti sappiamo che è la distanza fino a maratona, mentre qua onestamente non si sa quanti chilometri siano. No, e tra l'altro il problema della maratona è proprio questo, che verso la fine il corpo inizia a perdere vigore ed è la mente che deve sostenere il corpo, no? Però sappiamo, come diceva lei, che siamo verso la fine e che adesso tutto sta al mio stato mentale. Qui il problema è che dobbiamo ridefinire le regole del gioco, cioè dobbiamo renderci conto che stavolta se vogliamo correre si può correre abbracciati. È una metafora la mia, ovviamente, c'è sempre il distanziamento. Per carità, non si è mai detto. però non si può pensare che arriverà a meta solo una persona, no, perché altrimenti se aspettiamo di conquistare il podio, ecco, perderemo tutti. Qui dobbiamo correre, forse, possiamo anche fermarci, e chi si ferma non sarà sconfitto, ma sarà uno in sosta, e dobbiamo capire che forse... ci stiamo ingannando, cioè siamo convinti di essere arrivati alla fine, ma in realtà stiamo girando in tondo. Allora, rompiamo lo schema della corsa da A a B e cerchiamo di creare una comunità che si diverta. Allora, questo è un termine forte, però io sto lavorando proprio sui coach, ma anche con le aziende, sull'aspetto della leggerezza. Perché dico questo? Perché appunto quando uno è in una situazione performativa deve vincere, c'è la competizione, c'è la tensione, c'è lo stress. Noi dobbiamo adesso, oltre a vivere questo aspetto, vivere anche l'aspetto del ludico, divertente, leggero, cioè recuperare un attimo quei sentimenti che ci portino su, in senso verticale proprio, di respiro, di apertura al mondo. E lo possiamo fare solo se creiamo nuove regole del gioco che ci permettono di divertirci, perché è possibile farlo. Senta, sì, scusi. Ma le volevo chiedere una cosa: qual è l'errore più grave che possiamo fare tutti noi, visto che per una volta siamo tutti nella stessa situazione, cioè in questa situazione, ognuno con sfumature diverse, ovviamente, a seconda del proprio lavoro. Ma diciamo, l'errore più grave da evitare in questa fase 2? Guardi, io adesso non voglio dire l'avevo detto, però è una riflessione che ho fatto già a marzo su me stesso, no? E mi sono dato una risposta che ancora oggi mi accompagna. Cioè, l'errore più grande è stato ed è credere di essere in attesa. Stiamo aspettando che le cose cambino, che le cose ritornino alla normalità. Questo stato mentale di dire, ecco, aspettiamo, siamo in attesa, accadrà, ci porta ad un immobilismo interiore fortissimo, che è peggio dell'isolamento quasi, oppure rafforza l'isolamento. Invece dirsi non sto aspettando il mio turno, perché non c'è nessun turno, non c'è qualcuno davanti a me e poi tocca a me, no. Siamo tutti adesso in una nuova situazione, quindi io oggi do prendere l'impegno di pensare che cosa posso fare con le mie risorse per migliorare con creatività la mia vita, che cosa posso pianificare, quali strumenti ho per pianificare un minimo, no, per dare ordine e chiarezza. Ma soprattutto, come posso immaginarmi diverso? Perché okay, ormai sono diverso. Perché ormai sono diverso. Allora, noi ci dobbiamo salutare, ma direi che abbiamo dato un bel così, un bel là alle nostre riflessioni. C'è GR24, torniamo subito dopo con Si può fare. Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, è filiera ecosostenibile, da Brazzale. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E mentre fioccano ancora i nomi per il nuovo ponte di Genova, ve ne leggo giusto qualcuno: Zena, Del Ricordo, Paganini, De André, Pagandré facendo questa crasi, Ponte Cristoforo Colombo, Ponte Tre Caravelle, Ponte Nave, Ponte Ripartire 2020. Ebbene, mentre fioccano tutti questi nomi, io do di nuovo il ben ritrovato a Carlo, che è in collegamento con noi. Vero? Funziona tutto? Ciao Laura. Sì, funziona tutto, ciao anche ai nostri ascoltatori. Stavo ridendo per Pagandré, cioè la crasi fra Paganini paga e André, che è anche un buono per dire. No, non pago io, paga André, quindi poi passa lui a pagare. Vabbè, qualcuno deve pagare, insomma. È paga André, poi siamo a Genova, sono precisi fare i conti loro. Dunque, no, poi ci ritorniamo. Chiamate pure l'824 0024 per le vostre proposte, anche per concorrere. Oggi è giornata di quiz, ma vorrei sapere, Carlo, tu in questi giorni, quando hai messo il naso fuori di casa, con cosa ti sei mosso? A piedi, in bici, col monopattino? Ci stai pensando? Io unicamente a piedi, ma sto pensando all'idea di comprarmi una bicicletta o un monopattino, sfruttando anche la questione del bonus, capire, insomma, mi piacerebbe. Capiamo. Dunque, tutto per tornare un po' a pedalare. Esatto, per tornare un po' a muoversi, fare dell'attività. Sentiamo un po' cosa ci può consigliare Andrea Volontè. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Head of Automotive di Subito.it, quindi del portale lei è la persona specifica e dedicata a tutto ciò che di usato serve a muoversi, giusto? Esatto, tutto ciò che gli utenti cercano di comprare e di vendere, tutto ciò che ha delle ruote sostanzialmente per muoversi. Benissimo, quindi anche il pattino, però il pattino mi sa che non prende il bonus mobilità. In questo momento qua quello che sappiamo è che il bonus mobilità vale sia per il nuovo che per l'usato, per biciclette e monopattini, quindi tendenzialmente per tutto quello che aiuta la mobilità individuale. Perché mi scusi, era la prima curiosità che avevo, era se il bonus valesse anche sull'usato, e mi sembra che lei abbia già risposto. Prego, mi scusi l'interruzione. No, prego, cioè, vale anche sull'usato, a patto che sia dimostrabile con una fattura. Quindi se hai comprato l'oggetto da un professionista che mette fattura, è possibile richiedere il contributo. Noi tra l'altro abbiamo letto che l'usato in Italia vale come qualcosa come 23 miliardi, quindi c'è un grande interesse degli italiani al settore, magari nello specifico di questo momento qualcosa è anche aumentato sulla mobilità, comunque in generale direi che è un settore trainante, usiamo proprio questo verbo. Sì, è un settore fondamentale, soprattutto perché dà la possibilità di riutilizzare gli oggetti, quindi anche con impatti sull'ambiente di assoluto rilievo. Considerando che comunque il mondo dell'usato è vastissimo, perché si va dalle automobili ai telefoni all'arredamento, e in questo momento stiamo guardando il grandissimo interesse che c'è verso le biciclette e i monopattini, visto che parlavamo di quello, per tante ragioni, probabilmente perché c'è davvero una nuova richiesta di mobilità individuale, perché le persone tendenzialmente tendono a volersi muovere in sicurezza in modo individuale. Tant'è vero che noi nelle ultime due settimane stiamo misurando praticamente il doppio del traffico rispetto alla stessa stagione dell'anno scorso. Il doppio? Sì. E c'è tanta disponibilità, voglio dire, uno deve vendere, no? Non solo chi cerca, ma deve anche trovare, quindi le persone adesso stanno diciamo cercando di vendere i loro vecchi strumenti? Gli strumenti ci sono sempre, nel senso che a livello di, per darvi qualche numero, abbiamo circa 6.000 monopattini sulla piattaforma e più di 150.000 oggetti nell'ambito delle biciclette, quindi diciamo che a livello di offerta ce n'è. L'offerta è aumentata in queste settimane anche grazie ai professionisti che hanno cominciato ad attivarsi nella vendita online, perché comunque la spinta verso l'online è anche l'abbiamo avuto anche sull'offerta, perché tanti professionisti che magari... Ma quando parla di professionisti intende comunque di persone che vendono biciclette e monopattini usati o nuovi? Usati e nuovi, perché la nostra piattaforma è aperta alla vendita anche di oggetti nuovi da parte dei professionisti. Quindi professionisti, diciamo, il negoziante di biciclette può offrire sia l'usato che il nuovo sulla piattaforma. E quindi sono coloro che poi potranno mettere la famosa fattura per aver riconosciuto il bonus. Ok. Comunque, ecco, per avere il bonus ricordatevi tutti quanti che servono le carte, perché altrimenti il bonus non arriva, sempre che si riesca ad acchiapparlo, perché poi insomma con questi chiari di luce non è chiarissimo cosa succede e quanto tempo, cioè, tipo lo prendiamo per 2 secondi o 3, visto come sono andate ultimamente le cose. Volevo chiedere in quest'ultimo minuto, visto che avete anche una nuova piattaforma che avete messo in questo periodo, sull'aiuto da casa con annunci solidali, è una cosa specifica, no, del periodo, come sta andando? Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo lanciato nel periodo di lockdown, proprio per mettere in contatto domanda offerta, che è il nostro lavoro, però relativamente a servizio, perlomeno aiuti che i nostri utenti mettevano a disposizione nei confronti degli altri utenti. Sta andando molto bene, stiamo misurando veramente quanto è forte la community dei nostri utenti, perché comunque ci sono veramente aiuti di ogni tipo e genere, dalla maestra che mette a disposizione trucchi per imparare le tabelline, piuttosto che l'idraulico che racconta da remoto come magari sistemare una perdita del lavandino. E devo dire che questa cosa sta veramente, diciamo così, facendo parlare ulteriormente i nostri utenti al di là di quella che è una trattativa. Andiamo avanti fin tanto che c'è questa situazione, probabilmente un domani diventerà anche una categoria. Potrebbe essere, insomma, una banca del tempo anche quella online, in fondo. Esatto. Grazie molte. Andrea Volontè, Head of Automotive di Subito.it. L'usato fa rima con green e in questo periodo fa anche una certa rima con il bonus. Abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qui, come promesso, per parlare di Ponte di Genova e delle possibilità del nuovo Ponte di Genova di avere un nome che sia evocativo, che sia corretto, che ricordi le vittime, che ricordi la città. Sentiamo la proposta di Anna Maria da Firenze. Buongiorno. Guardi, mi è sempre buongiorno signora, mi è sempre piaciuto il rigore, l'onestà e la chiarezza e il mantenimento delle proprie idee del signor Toninelli, ed è un parlamentare che ha avuto molto coraggio sempre. Quindi lei è favorevole, insomma, a chiamarlo Ponte, sì. Toninelli. Ha firmato, sì, anche la petizione. Ha avuto anche signora, ha avuto anche moltissime critiche, signora. Come? Sì, molte il ministro Toninelli, diciamo, certo, ha avuto tantissime critiche. Sì, ma quando uno ha il coraggio delle proprie idee e le esplicita con la chiarezza, con lui sempre fatto, anzi, se c'è discussione in merito a indirizzi così, tanto meglio in Parlamento, no? Ecco, certamente, trovato... diciamo che le critiche, le critiche non erano tanto sul fatto che lui fosse onesto, ma erano più sull'incompetenza. Ma sa, io penso che i parlamentari italiani purtroppo si caratterizzano per la incompetenza generale, quindi sono tutti... quindi lui vince come miglior parlamentare, va bene, allora d'accordo. Vabbè, per la sua testardaggine, va bene, grazie Anna Maria, grazie e buona giornata. Abbiamo parlato di traffico, abbiamo parlato di coronavirus e adesso uniamo le due cose con un esperto, Prisco Piscitelli, che è il vicepresidente di Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA. Buongiorno. Buongiorno. Perché è nata questa task force che si chiama RESCOP, vabbè, un acronimo anche questo, Research Group on COVID-19 and Particulate Matter. Quindi in particolare parliamo di polveri sottili, no? E COVID. Sì. E quindi di andate a indagare insieme a tutta la vostra rete se c'è, no, una relazione della quale si è parlato molto tra l'inquinamento atmosferico e la diffusione di questo virus. Sì, si tratta di una rete internazionale che vede degli esperti sia italiani che europei e americani, ma insomma un po' da tutti i continenti, e anche dall'Australia, dal Brasile, quindi ci sono rappresentati un po' tutti gli stati dove l'epidemia è in questo momento vissuta in maniera molto, molto intensa, e siamo partiti dalle osservazioni epidemiologiche che di fatto ci ponevano una giusta domanda di ricerca, una ipotesi di ricerca che riguarda appunto la correlazione tra i livelli di inquinamento atmosferico, quindi polveri sottili, e Covid-19. E abbiamo visto che anche in Italia le aree più colpite sono state quelle dove si registrano stabilmente dei livelli di PM10, di PM2.5 sempre molto elevati. La pianura padana è una delle aree più problematiche d'Europa da questo punto di vista, ce lo dice l'Agenzia Europea per l'Ambiente da molto tempo, e poi va ricordato che attualmente le soglie a cui per esempio blocchiamo le nostre città, quindi le soglie dei limiti di legge per il PM10, PM2.5, quindi i polveri sottili che misuriamo, sono il doppio degli standard considerati accettabili di salute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già dal 2005. Quindi ci sono già dei problemi, persone che vivono per decenni. Ma dice, mi scusi, tipi di polveri. Ma queste percentuali sono questa, la percentuale delle polveri è maggiore dove c'è il Covid o no? Nel senso che questa questione del fatto che ci sia una correlazione fra inquinamento e zone maggiormente colpite da Covid è valida come ipotesi? Quali sono i dati? Su che cosa vi state concentrando? Ma l'ipotesi di ricerca è molto fondata ed è in questo momento investigata anche per esempio dall'Harvard School of Public Health negli Stati Uniti, oltre che dai nostri gruppi di ricerca italiani, da SIMA, ma non solo, ci sono stati anche degli studi, noi siamo stati i primi, ma ci sono stati anche degli studi dell'Università di Tor Vergata, stanno partendo anche iniziative nazionali che tendono a indagare questo aspetto, proprio perché come emerge dalla nostra ricerca, dal nostro position paper iniziale della SIMA, la maggior parte delle province, quindi 60 province su 66 nelle quali si registrano i maggiori sforamenti durante l'anno rispetto a valori di limiti di legge, che sono già però poco protettivi per la salute, sono concentrati tutti nel nord, in particolare nella pianura padana come province, mentre quelle dove si registrano, le province dove si registrano i livelli più bassi di particolato atmosferico sono al sud, centro-sud, e che hanno avuto progressioni alla malattia molto molto inferiori. Quindi si parte da questa osservazione epidemiologica per andare a indagare questo aspetto. Lo faremo, quindi, per cercare un riscontro, certo, lo fate, sì, a livello internazionale. È chiaro che questa è una delle ipotesi, no, lo dico solo per una questione di cautela, poi non so, si potrebbe notare che ci sono altre ricorrenze, non so, gli scambi frequenti con l'estero, la densità della, popolazione, ci sono mille cose da indagare, questa è una. Sono tutti fattori, sì, di cui si tiene conto. E comunque, ripeto, ovviamente essere cronicamente esposti a livelli elevati di polveri sottili, visto, ripeto, che i nostri limiti di legge sono molto superiori, quindi il doppio rispetto alle soglie considerate protettive per la salute dall'OMS già dal 2005, non fa bene alla salute, già ci predispone, soprattutto i soggetti più fragili, più anziani, a una maggiore suscettibilità a infezioni respiratorie. Certo, essere già più deboli, quindi nel momento in cui arriva il virus, essere più attaccabili. Certo. Questo penso sia. E negli altri paesi si riscontrano situazioni simili? Adesso qualcuno in cui mi scrive, non so, la Svezia, non sarà mica colpa delle polveri sottili la situazione che hanno. Vabbè, andrà indagata, però voi avete una rete che cerca proprio di vedere questo. Però la domanda è interessante, perché in realtà ha fatto circolare liberamente poi il virus nella popolazione generale, ma insomma sono altri fattori. Noi in particolare come SIMA, i nostri ricercatori sono stati anche i primi ad aver documentato in qualche modo la possibile rintracciabilità dell'RNA virale, che non significa assolutamente l'infettività, ma tracce di RNA virale sulle polveri sottili dell'area di Bergamo nel pieno dell'epidemia. E questo potrebbe aiutarci invece a poter utilizzare eventualmente, e anche questa ipotesi testeremo, questo riscontro, quindi la misurazione dell'eventuale ritrovamento di particelle di RNA del virus sulle polveri sottili, come per esempio indicatore di possibili recidive dell'epidemia. Anche questa è un'ipotesi di ricerca che perseguiremo. Certo. Ed è un esempio di quello che si può fare. Senta, ma chi finanzia questa ricerca? Come? Chi finanzia questa ricerca? Ecco, questa è un'altra cosa che appunto stavo per dire, è un esempio di quello che si può fare, parafrasando il titolo della vostra trasmissione, che si può fare semplicemente con la volontà dei ricercatori, con quel che già si ha a disposizione nelle strutture laddove si lavora, e senza attendere né che l'epidemia finisca in maniera definitiva, perché a quel punto sarà più difficile poter avere questi riscontri, dobbiamo farlo adesso, mentre ancora sono in corso anche in altre città europee dove ci stiamo muovendo, da Madrid a Bruxelles, ancora situazioni epidemiche importanti e senza attendere finanziamenti specifici o particolari, ma mettendosi in gioco con la passione e la volontà dei ricercatori, l'amore per la verità e per il bene comune e la salute delle persone, senza attendere finanziamenti. Ok, quindi nel senso che no, non ho capito. No, mi scusi, ma quindi è su base volontaria questa ricerca? Sì, sì, in questo assolutamente tutti si stanno mettendo in gioco senza nessun tipo di finanziamento o di fondo specifico, ma con quello che già come ricercatori abbiamo nelle nostre strutture. Quindi anche questo, ripeto, è un esempio di perché si può fare, no? Ripartire da un paese, in questo caso da più paesi migliori, come nello slogan della vostra trasmissione. La ringraziamo per averlo ricordato più volte. Voi siete tra l'altro i coordinatori di questo gruppo, quindi può dirci magari quando pensate di cominciare ad avere le prime evidenze? Le nostre analisi sono attualmente in corso, proprio perché non dobbiamo muoverci ad epidemia finita se vogliamo riscontrare qualcosa. In questo momento sono in corso analisi, campionamenti e analisi di biologia molecolare a Madrid, a Bruxelles, a New York, ma anche in Italia, a Milano, a Bergamo, a Napoli, a Torino. E quando avremo dei risultati, secondo lei? Ma i primi risultati noi ci aspettiamo molto a breve termine, già nelle prossime 2 o 3 settimane. Nelle prossime 2 o 3 settimane, allora noi la prenotiamo, direi, a questo punto. Sì. La prenotiamo senz'altro. E tra l'altro immagino si possa, volendo sostenervi, quindi magari non possiamo dare qualche riferimento. Il nostro sito è www.simaollus.it, ci sono tutti i riferimenti della nostra società scientifica e anche i dettagli di tutte le personalità del mondo scientifico coinvolte nella ricerca. Si fa per esempio dal professor Kelly dell'Imperial College di Londra, che è una delle massime autorità europee, fino al professor Ioannidis di Stanford e ai colleghi Darby El Chirrud della Columbia University di New York, ma facoltà di medicina di Madrid insomma, di Bruxelles. Siete un bel gruppo, e ci dispiace non potervi ospitare tutti, ma almeno lei la richiamiamo senz'altro non appena grazie ci saranno le prime risultanze. Grazie infinite davvero a Prisco Piscitelli, vicepresidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, e diamo il benvenuto alla nostra ascoltatrice che ha chiamato da Genova, i genovesi scatenati. Buongiorno. Non vorrei disturbare molto, però volevo. Lei non disturba idea. Affatto. L'architetto Renzo Piano ha progettato il ponte. Credo che non si sia fatto neanche pagare, l'ha fatto a titolo gratuito per la sua città, e non ci sarebbe niente di. Cioè, mi sembrerebbe giusto che fosse intitolato all'architetto Renzo Piano. Però sa cosa ha detto Renzo Piano? Renzo Piano ha detto: fate dare il nome ai bambini, perché i bambini hanno le idee migliori, quindi lui scarica il barile sui bambini. Comunque io volevo fare i complimenti, perché io vivo sempre con la vostra radio accesa, sono una vostra ammiratrice, mi fate tantissima compagnia e trovo che siano molto interessanti tutte le cose che dite, adesso ci fa arrossire. La ringraziamo molto, ma io le volevo fare un'altra domanda approfittando del fatto che lei sia di Genova. Secondo lei il nome, ci sarà un nome ufficiale e poi i genovesi in realtà lo chiameranno in un altro modo questo ponte, oppure ci sarà un nome ufficiale e i genovesi effettivamente useranno il nome ufficiale? Ma io lo considererò sempre il ponte di Renzo Piano, perché l'ha progettato. È stato. Ecco, cioè, infatti avevo la sensazione che ognuno avrebbe dato il nome che preferiva al ponte. Sì, sicuramente io lo considererò sempre mille. Il ponte di Renzo Piano. Benissimo. Grazie a voi. Grazie. Genova ci ha chiamato Graziella. Abbiamo una piccola pausa, Carlo, e poi proseguiamo. Qui i nomi possono ovviamente continuare a essere scritti su 349-238-6666, WhatsApp o SMS, ma potete anche concorrere. Anche il quiz. Esatto, per il nostro quiz che è qui prontissimo per voi e che regala un libro. Lo so che avete già letto tanto durante queste settimane di chiusura, però c'è sempre un orizzonte. Ma non si legge mai abbastanza. Esattamente. Piccola pausa, tra poco. si può fare. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61% ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 1, 2, 3, 4. Get on up. Get on up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Un'altra delle proposte è Ponte Italia, scrive Leonardo da Torino, ha ragione, mi ero dimenticata di nominare anche la sua di proposta. È arrivato nel frattempo un semplicissimo Ponte Nuovo. Carlo, credo che questo vincerà un po' su tutti, eh. Il Ponte Nuovo sarà il modo in cui verrà definito per lungo tempo. Ah, dici? Dici? Non lo so. Quale ponte? Non lo so. Quello sono nuovo. Sono curioso di questo. Ah, giusto. In questo modo è vero, lo capirebbe anche uno che viene da fuori. Esattamente, poi certo avrà il suo nome ufficiale, ma come dicevi tu poi ce ne sarà uno informale. E il ponte di Renzo Piano e il ponte nuovo secondo me sono quelli che saranno un po' più diffusi, diciamo, no? Però vedremo, staremo a vedere. Nel frattempo ci occupiamo di un'altra questione. Una questione difficile, un altro momento difficile, quello che stanno vivendo coloro che si occupano, curano, gestiscono i parchi gioco e le ludoteche, che sono state ampiamente dimenticate, come i parchi giochi quelli grandi, ecco, anche quelli piccoli e le ludoteche sono stati ampiamente dimenticati in questo periodo. Tant'è che si sono riuniti i parchi gioco e ludoteche in un'associazione che presto prenderà poi una forma anche ufficiale, e la portavoce di questa associazione è Cinzia Castellazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. No, è così, per ora non buongiorno. Avevate un'associazione di riferimento, la state formando adesso, visto proprio la situazione e le difficoltà di questo periodo. Certo, infatti il problema grande è proprio questo, che la nostra categoria è una categoria che non ha una storicità, però diciamo che esiste da poco rispetto ad altre categorie, da una decina, da 15 anni, c'è qualcuno che è già ventennale, però diciamo molto molto giovane, non è mai stata normata nello specifico, non c'è un'associazione di categorie che ci rappresenta, e quindi quando è capitata questa emergenza sanitaria abbiamo dovuto in qualche modo organizzarci tra di noi, proprio perché, come abbiamo potuto vedere, siamo stati dimenticati da tutti, nessuno ci ha mai nominato, e quindi era necessario, proprio per poter far sopravvivere la categoria, perché qua il rischio è veramente grande. Io sono stata abbastanza ottimista, perché ho detto che se non ci daranno una mano il 50% di noi chiuderà, ma secondo me sono anche di più. Ma i parchi gioco, per chiarire, stiamo parlando dei parchetti, non so, dove ci sono i trenini, allora, di cosa no, stiamo parlando? No. Allora, si tratta di strutture organizzate per divertimento, ma anche socializzazione dei bambini. Diciamo che sono dei capannoni, per farla semplice, dove ci sono dei giochi tipo i gonfiabili, omologati, gonfiabili, percorsi, playground, giochi per i bambini divisi anche in fascia di età, dove i bambini vengono, giocano tra di loro, socializzano, ma anche gestiscono feste. Noi gestiamo feste di compleanno, ci sono possiamo fare del baby parking, facciamo anche i laboratori, facciamo centri estivi. Questo vale sia per quanto riguarda il discorso parchi gioco che per quel che riguarda le ludoteche. Le ludoteche diciamo che nel caso specifico fanno anche servizi magari extrascolastici, servizi un po' educativi, però anche loro organizzano tutto quello che riguarda, tutto quello che ruota intorno al bambino. Infatti siamo da anni il punto di riferimento per le famiglie. Non esiste famiglia con bambini che non abbia frequentato da noi. Esatto, esattamente. E però, come tutto ciò che riguarda un po' la galassia bambini, insomma, è rimasto un po' nell'angolo in questo periodo. Quante persone lavorano in questo settore? Siete riusciti ad avere una stima? Allora, proprio perché non abbiamo una normativa specifica, non abbiamo un'associazione, non abbiamo nulla, è molto difficile. Abbiamo fatto delle stime sulla base di cercando di capire quante ludoteche e parchi gioco in Italia esistono. Pensiamo sempre con numeri ottimistici, diciamo, secondo noi ce ne sono di più, 2500 più o meno, con un indotto tra anche le persone che comunque non ci lavorano direttamente all'interno, ma tipo gli animatori piuttosto che quelli che fanno servizi di catering, quindi tutto quello che ruota intorno al nostro mondo, siamo secondo noi anche circa 20.000 persone in tutto il territorio nazionale, che hanno delle grosse difficoltà. La problematica grande nostra è che si tratta di strutture che sono molto grosse, medio grosse, diciamo, quindi si devono fare in capannoni, comunque spazi ampi, e hanno dei costi fissi notevoli perché gli affitti sono piuttosto elevati. Molte volte sono a conduzione familiare, poi ci si avvale di collaboratori, per cui qua il problema è proprio anche la tra virgolette rovina di una famiglia, perché quando una struttura di questo genere chiude, tante famiglie che ci lavorano dentro non hanno proprio più nessun introito, quindi diventa difficoltoso anche quello. Non è soltanto il salvare la categoria, è proprio salvare le famiglie, perché certo, il problema è grande. Insomma, noi nei nostri gruppi ce ne sono tanti che non ce l'hanno fatta e comunque non se la sentono di continuare a proseguire, perché comunque i costi fissi aumentano. Infatti si parla di affitti che vanno dai 2.000 ma oltre anche ai 5.000 euro al mese. Quindi noi non sappiamo quando riapriremo, perché non abbiamo ancora ben capito quando ci daranno la possibilità, ovviamente tenendo in considerazione la problematica sanitaria, e questo è poco ma sicuro, perché la nostra categoria è molto difficile garantire un distanziamento tra bambini, questo ovunque, cioè diciamo anche perché se devono giocare insieme diventa difficile. Esatto, nel senso esatto. Che non credo che l'unica soluzione possibile sia quella di dire giocate online, bisognerà trovare un modo. Mi chiedevo quali sono le vostre proposte per riaprire, perché abbiamo capito che in realtà voi avete delle idee per cui essere utili anche in questo momento di Covid. Certo, allora noi, visto che comunque abbiamo per il momento accantonato il discorso feste di compleanno, gioco libero, proprio per queste ragioni, abbiamo pensato, visto che c'è la necessità di questi centri estivi, perché comunque i genitori devono cominciare a lavorare, tanti hanno già iniziato, i nonni in questo momento sono persone che devono stare poveretti, però comunque non proprio vicinissimo ai bambini, allora noi abbiamo detto, visto che i nostri spazi sono da sempre destinati ad accogliere i bambini, sia in igiene che in sicurezza, potremmo metterli a disposizione, visto che c'è la necessità di distanziamento. Quindi i centri estivi, come venivano organizzati negli anni precedenti, con il numero di persone, di bambini presenti, è impossibile organizzarlo, quindi servono più spazi, perché laddove prima ce ne stavano 50, adesso magari ce ne possono stare 10. Allora abbiamo detto, mettiamo a disposizione i nostri spazi, e abbiamo cercato di abbiamo scritto sia al governo che anche per quel che riguarda gli enti locali, le nostre strutture, che noi siamo dislocati in tutto il territorio italiano, offrendo la possibilità di portare avanti anche noi il progetto centri estivi, come secondo le linee guida che sono state divulgate, perché ovviamente noi non quindi possiamo dare una sterzatina, diciamo, all'attività su più centro estivo. Non è un qualche cosa che ci può salvare la vita, nel senso che non è che io, grazie al centro estivo, anche perché le linee guida che abbiamo letto e che stiamo continuando a cercare di interpretare alla meglio sono molto restrittive, perché parlano di 5 bambini ogni operatore per quel che riguarda l'età d'asilo, piuttosto che 7 ogni operatore. Non si devono, se ci sono più gruppi, non devono entrare in contatto tra di loro, comunque va garantito un certo distanziamento, il triage all'ingresso, ci sono tutti tutta una serie di cose che sono dei costi notevoli, quindi noi in questo modo certo. cerchiamo di sbarcare un po' il lunario, di salvare quel che sono i costi fissi. Sicuramente non tireremo fuori, difficilmente riusciremo a tirar fuori uno stipendio, però lo vogliamo fare proprio per dire, non è che siamo qua, vogliamo star qua seduti ad aspettare che passi tutto questo e poi ripartire, se mai. Noi cerchiamo anche di fare la nostra proposta, quindi abbiamo scritto, sembra che nel decreto… Ecco, ma senta, sì. Sappiamo che avete scritto al governatore Fontana e che avete scritto anche per quel che al presidente la Lombardia, del Consiglio Conte. Sì, sì. Poi hanno le risposto? Altre regioni hanno scritto anche ai loro certo. governatori. Per qualcuno cui ha risposto? Io sono in Lombardia… un'altra domanda. No, devo dire che allora non può dirlo, non è mica certo, un problema. No, scherzavo. Per ora no, diciamo. No, diciamo che no, se devo essere sincera no, in alcune regioni sì. Sono stati convocati i rappresentanti regionali, sono stati indetti dei tavoli dove si è cercato di in qualche modo capire come si poteva fare per organizzare il tutto. Per quel che riguarda la Lombardia ci hanno risposto dicendo che dobbiamo aver pazienza. Questa è stata la risposta, io lo dico perché ce l'ho, se la volete ve la giro, la lettera che ci ha mandato, dovete aver pazienza, cioè una risposta non risposta, diciamo, momentaneamente. Pazienza che, cioè nel senso pazienza perché non abbiamo ancora processato la vostra proposta o pazienza perché non ce no, n'è? No, perché comunque la situazione la si sa, no, questo io non lo so, spero di no perché noi insisteremo, però diciamo che sembra che… allora c'è anche da dire che la Lombardia è quella che è stata più colpita e ancora adesso non possiamo dire che ne siamo fuori, nel senso sì, andiamo sempre migliorando, però ci sono ancora contagi, ci sono ancora persone che muoiono, quindi da un certo punto di vista comprendiamo anche, dall'altro punto di vista sono 3 mesi che noi non lavoriamo. Certo. Non c'è stato dato un centesimo, perché non c'è stato dato un centesimo, il nostro nome è stato nominato, è uscito dall'ultimo DPCM che dice dal 15 giugno sarà consentito l'accesso a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, questo è come siamo stati nominati, e quindi la pazienza è anche un po' finita perché la gente comunque deve mangiare e quindi con la pazienza non si mangia, abbiamo bisogno di aiuti. Ma evidentemente o di possibilità di lavorare o appunto di alternative, esatto, perché sicuramente non possiamo riaprire al 100% e anche dovendo riaprire per poter garantire l'ingresso distanziato di 10 bambini diventa molto difficoltoso per noi, perché a quel punto lì ripartono, anche perché tanti di noi hanno proprio bloccato le bollette. Perché comunque le bollette, come sappiamo, a parte adesso l'ultimo decreto rilancio, comunque hanno dei costi fissi che sono abbastanza ingenti. Per cui qualcuno ha detto, guarda, a me conviene di più interrompere il contratto e pagare la riattivazione successivamente alla riapertura. Quindi tanti hanno fatto anche questo. Se io riparto, comunque i miei costi risalgono. Cioè riparto in condizioni diciamo praticamente difficoltose, ecco, in questa maniera, ovvio che se io ripartissi, ma anche soltanto con dei gruppetti, ma potendo organizzare delle feste fatte, perché noi le nostre idee le abbiamo, disinfettiamo, facciamo dei piccoli nuclei alla volta, ci rendiamo conto che è difficoltoso, però parliamone almeno, perché se nemmeno ne parliamo noi siamo qui a aspettare cosa? Gli sfratti. Adesso perché sono bloccati, però ci saranno degli sfratti perché gli affitti non si riescono a sostenere. Certo, non si chiarissimo. Può, non è possibile. Ingresso zero, come faccio io a pagare un affitto? Ma almeno dateci una mano. Il decreto rilancio, una mensilità, il 20% di una mensilità e tutti gli altri mesi? Cinzia, abbiamo capito. È un po' quello che ci stiamo chiedendo tutti, diciamo, un po' certo. in tutte le categorie. Cosa certo. possiamo fare? Comunque È chiarissimo e siamo stati contenti, diciamo, di aver potuto darle voce e anche dar voce al fatto che avete delle proposte, non solo delle preoccupazioni, ecco, delle proposte di riapertura e di ripartenza. Cinzia Castellazzi, buona giornata, buon proseguimento. Grazie. E diamo il benvenuto a Michele che ha chiamato da Pistoia per il nome del ponte, credo. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei. Dunque, per aver chiamato. Ci mancherebbe, buongiorno. Semplicemente questo, con tutto il rispetto per le autorità, per i nomi illustri del passato, del presente, nulla toglie a tutte queste eccellenze rammentate, io lo intitolerei ai deceduti perché secondo me è il suo ponte, quindi invece magari giustamente di mettere tutto l'elenco dei nomi, basterebbe una targa, un'incisione, basterebbe intitolarlo ai 43. Ai 43. Quindi lei sta per la versione appunto che vuole 43 come nome del ponte, in sostanza. Sì, i 43, 43 vado a memoria, le 43. A memoria. No, è giusto, è giusto. Sì, sì. Bene, grazie per avere anche ben spiegato la sua posizione. Abbiamo il traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci con la classifica delle 5 migliori notizie della settimana, le 5 buone notizie della settimana che ci sono piaciute, e iniziamo subito con al quinto posto l'Everest, che si vede per la prima volta da Kathmandu. L'isolamento infatti ha eliminato anche là l'inquinamento. Certo, è dovuto alle cause che anche in Italia sono ben note, questo abbassamento dell'inquinamento, al fatto che tutto è in lockdown, ma comunque il risultato è questo, che l'inquinamento impediva da anni a residenti e turisti di Kathmandu, capitale del Nepal, di ammirare le cime innevate del monte Everest. Ma l'esplosione dell'epidemia da Covid-19 e successivo lockdown hanno causato un radicale cambiamento, e come mostrano le immagini pubblicate su Twitter, dalla capitale nepalese per la prima volta si vede nitidamente il tetto del mondo, anche se si trova a 200 km di distanza. Al quarto posto andiamo negli Stati Uniti, dove le celebrità diverse di loro donano o perlomeno prestano l'accesso ai loro social a esperti di coronavirus. Passa il microfono, si chiama questa iniziativa, hashtag pass the mic o the mic, visto che è microphone. Da oggi e per alcune settimane le celebrità di Hollywood passeranno letteralmente il loro microfono, ovvero la loro visibilità, i loro account Instagram piuttosto che Twitter piuttosto che Facebook, ai massimi esperti mondiali di Covid-19, per dare eco alle voci della scienza, a dati e studi sulla lotta alla pandemia, e non chiacchiere, con l'obiettivo ovviamente di contrastare il dilagare di fake news. Per esempio Anthony Fauci, massimo immunologo mondiale, membro della task force della Casa Bianca, l'abbiamo visto spesse volte, si affaccerà sull'account Instagram di Julia Roberts per spiegare: combattere il virus vuol dire stare a sentire gli esperti, seguire fatti e informazioni scientifiche. E direi che in un paese in cui il presidente usa i social per diffondere cure bislacche come iniettarsi il disinfettante, un po' di informazione scientifica ci sembra molto utile. Al terzo posto la riapertura delle oasi del WWF. Il tradizionale appuntamento con le aree naturali protette gestito direttamente dal WWF Italia, la giornata delle oasi, si svolgerà domani, che è il 24 di maggio, e poi di lì in poi, con tutte le accortezze del caso e con i protocolli che assicurano la sicurezza dei visitatori, le oasi riapriranno al pubblico nel corso delle settimane successive. Le riaperture saranno contingentate, le visite dovranno essere prenotate dal sito del WWF, ma insomma si potranno fare. Anche questo è un bel segnale di ritorno alla normalità. E al secondo posto il Piemonte, dove la banca regionale del plasma è nata, ed è appunto la banca regionale del plasma Covid-19. Sono in Piemonte è iniziata la raccolta del plasma per la cura dei pazienti affetti da coronavirus. La sperimentazione, che è già stata avviata settimane fa a Torino e Novara, ora invece è su tutto il territorio piemontese, 16 in tutto i centri che compongono la banca regionale del plasma, a cui sarà possibile rivolgersi per donare. L'assessore alla sanità della regione Piemonte dice: ancora una volta l'esperienza sul Covid ci insegna che per battere questa malattia bisogna fare squadra, ci vogliono i medici e la scienza, ma anche i donatori e i comportamenti responsabili di tutti i cittadini. La battaglia non è ancora vinta, ma si sta combattendo su tutti i fronti. E infine al terzo, al primo posto, mi sono persa lungo la classifica. Al primo posto abbiamo scelto un altro segnale di riapertura e di ricucitura del nostro territorio e della nostra vita, perché dal 3 giugno ci sarà il primo Frecciarossa a collegare Torino a Reggio Calabria direttamente, senza tappe intermedie, senza dover cambiare. Giovedì 21 maggio infatti sono stati messi in vendita i primi biglietti, il collegamento sarà attivo dal 3 di giugno e sarà la prima volta nella storia che il capoluogo piemontese e quello calabrese saranno collegati senza cambi intermedi. Non solo, per collegare anche la Sicilia alle città servite dall'alta velocità, insieme al biglietto delle Frecce sarà possibile acquistare anche quello della nave veloce Blue Jet del gruppo FS Italiane tra Villa San Giovanni e Messina. Gli orari delle navi e dei treni sono integrati per garantire un facile interscambio, leggiamo, tra i due mezzi di trasporto. Il collegamento giornaliero sul Frecciarossa da e per Reggio Calabria è la principale novità dell'offerta di Trenitalia di questo giugno, e ci mancherebbe altro visto che è la prima volta nella storia. Ed eccoci in conclusione con l'ultimo ospite di giornata, perché abbiamo visto, e forse l'hai visto anche tu Carlo, tonnellate di plexiglass, e vabbè, che dovranno separarci dai nostri vicini ovunque essi si trovino, ma abbiamo visto finalmente dei divisori fatti di piante, di siepi, qualcosa di assai più sostenibile e anche più gradevole. E ne parliamo con Aldo Alberto, presidente dell'associazione Florovivaisti Italiani e Cia Liguria. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Finalmente buongiorno. Del verde a separare, visto che dobbiamo separare non solo plastica. Sì, tanto la plastica, come dire, a volte è necessaria, purtroppo troppo spesso, però fa un po', cioè, insomma, non è bello, ecco. Poi ci eravamo già partiti con una logica, poi la plastica dovevamo ulteriormente eliminarla, poi vabbè, c'è questo frangente che ha la priorità. Però diciamo integrare la plastica dove serve con delle situazioni che possono creare dei momenti di distanza o con le piante è tutt'altra roba, sia dal punto di vista diciamo estetico, della piacevolezza, ma anche della salute, perché sappiamo benissimo che le piante molto vero, molto vero, e l'aspetto estetico è vero, e l'aspetto estetico non è assolutamente secondario, visto che stiamo parlando di bar, ristoranti, di persone che dovrebbero uscire di casa per andare in un luogo a star bene e divertirsi. Quindi vedere queste siepi al posto dei plexiglass per tenerci divisi ci ha fatto molto piacere e molto ben sperare. Ma come funzionano? Vanno bene tutte le piante? Ci sono certe piante migliori? Veramente le piante possono sostituire il plexiglass? Ma guardi, dal punto di vista diciamo della possibilità di filtrare la il virus, io questo non mi sento di però di distanziarci, sì, lì. Ecco. Però perfetto, difatti, però sul distanziamento siamo sicuri che è così, e sarebbe, si tratterebbe di un bel distanziamento, perché è come diceva lei, è piacevole da un certo tipo di, come dire, sollievo anche dopo tutti questi mesi passati in certi modi, e poi all'interno di un ristorante, di un locale, quindi anche all'interno a seconda delle tipologie, ma è vantaggioso, sì, dal punto di vista economico? Ma guardi, io penso che voglio dire, fare delle barriere di plastica quel modo lì non sia gratuito, quindi io credo che come minimo le situazioni si equivalgano. Le essenze, ovviamente la pianta viva c'ha la difficoltà rispetto, difficoltà tra virgolette, che rispetto alla plastica bisogna avere il minimo di cura, da dare da bere, dell'acqua eccetera, però ci sono una tale varietà di essenze che si possono utilizzare che possono essere scelte, appunto, sia che possono vogliono essere messe all'interno di un locale che all'esterno, no? Se vuole posso citarne due o tre, voglio dire. Dai, ce le dica che abbiamo l'ultimo minuto e così corriamo a far spesa. Vabbè, guarda, la bottiglia Red Robin, che è bellissima, ha una foglia rossa viva, di facile mantenimento, un bellissimo prodotto. Ricco Spermum, che sarebbe il classico gelsomino, di nuovo una pianta che poi è fiorita tutta l'estate e è un bel verde molto molto accattivante. Le rose, spalliere di rose, oppure il Teucrium fruticans, che è una pianta molto resistente, resiste parecchio anche al freddo, è foglia grigia, fiorisce due volte all'anno, ha dei fiori azzurri molto molto carina, facilissima da mantenere, anche questa non soffre né il caldo né il freddo, ecco, l'edera, voglio dire, ce n'è una quantità importante. Sotto questo aspetto bisognerebbe, come dire, fare dei ragionamenti per coinvolgere i produttori in questo senso e potersi organizzare. Io preferisco ricordare che oltre alle problematiche di questo periodo, ogni pianta in più all'interno di una città è salute in più, oltre che bellezza, quindi mi piace rimarcare molto giusto aspetto. Molto, davvero, grazie Aldo Alberto, ci grazie saluti mille. Tutti i florovivaisti italiani, grazie. Grazie. Grazie, allora ci ritroviamo domani Carlo, siamo arrivati al termine di questa puntata, certo. Ringraziamo Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, Carmelo Lauricella in regia, da Laura Bettini, a domani.